Nella mattina di domenica tre navi appartenenti alla Marina Ucraina si sono avvicinate allo stretto di Kerch che separa la penisola della Crimea dalla Russia continentale, dal distretto di Krasnodar sul Mar Nero. Queste tre navi sono state avvistate al controllo frontaliero russo, sono stati subito messi in campo mezzi militari della Marina e della Guardia Costiera che è sotto il controllo dell'FSB, successore del KGB in Russia. Queste navi sono entrate in acqua per avvicinarsi al convoglio di tre navi ucraine e bloccare il loro passaggio. Ci sono diversi punti di vista riguardo al fatto se ci fossero o meno stati permessi dovuti al passaggio attraverso lo stretto, concessi o meno da parte dei russi verso queste navi. Sta di fatto che la marina russa ha bloccato il loro passaggio attraverso lo stretto, questo vuol dire attraverso l'unico punto di accesso di tutto il mare di Azov, che è questo piccolo mare interno che fa parte del più grande Mar Nero e che dà accesso a due città portuali molto importanti per l'Ucraina. Queste navi dovevano raggiungere il porto della città di Mariupol nel sud dell'Ucraina e sul mare di Azov, partendo dal porto di Odessa. Così facendo i russi in pratica hanno impedito che queste navi raggiungessero il porto, ma hanno ristabilito una volta ancora che in questo momento, una volta che è stato stabilito il controllo sia sulla penisola della Crimea tramite il referendum sia nelle altre repubbliche di Donetsk e Lugansk, la situazione sul terreno fa sì che il mare di Azov sia l'accesso al mare di Azov sia fondamentalmente controllato dai russi. A questa provocazione la marina ucraina ha fatto uscire da un porto militare nel mare di Azov altre due navi che si sono dirette verso il ponte, eventualmente per ingaggiare le navi russe che nel frattempo si erano scontrate fisicamente con un rimorchiatore ucraino che faceva parte del convoglio. Che cosa è successo? La marina russa ha impiegato una porta container dislocandola al di sotto del ponte, che già di per sé fisicamente limita di molto il passaggio delle navi perché è un ponte piuttosto basso e alcune navi porta container ad esempio non possono passare attraverso il ponte. Attraverso il dispiegamento della porta container e l'utilizzo di elicotteri da combattimento e di aerei militari, lo stretto è stato assolutamente sigillato qualsiasi possibilità di passaggio della marina ucraina. Questo è quello che è successo ieri. Successivamente una riunione durante la sera del Consiglio Nazionale di Sicurezza ucraino presieduto dal presidente Petro Poroshenko ha dichiarato l'intenzione di voler portare in Parlamento nella Rada ucraina la richiesta di avanzare la legge marziale, di imporre la legge marziale nel paese per 60 giorni con diverse conseguenze che questo potrebbe avere sul futuro del paese, dato che il 31 di marzo si eleggerà il prossimo presidente dell'Ucraina. Poi passeremo anche alle risposte internazionali, però intanto da entrambe le parti si è richiesto un intervento dell'ONU e si è richiesto perché sia dalla parte russa sia da quella ucraina si riteneva di aver subito una violazione, diciamo, degli accordi internazionali. Ora in realtà quella zona è molto conflittuale, in teoria sulla base di un trattato del 2003 quelle del mare di Azov sarebbero acque internazionali, quindi avrebbero accesso sia l'Ucraina che la Russia. In realtà lì si sta giocando una partita già da un po' di tempo. Sono diversi mesi che ci sono provocazioni da entrambi i lati. Si deve tenere conto che i porti di Mariupol e di Berdyansk sono molto importanti, entrambi inseriti affacciati sul mare di Azov, sono molto importanti per l'economia ucraina, per l'export ad esempio dei prodotti dell'agricoltura, e da quando è stato costruito il ponte navi russe e le autorità russe hanno più volte bloccato il passaggio attraverso il ponte, ad esempio tra il 27 e il 29 di agosto del 2018, tra l'11 e il 13 di ottobre, quindi questi episodi sono stati ripetuti. Non c'è mai stato però l'utilizzo di mezzi militari e addirittura c'è stata la missione da parte delle autorità russe di aver aperto il fuoco per fermare queste tre navi. Questo chiaramente contribuisce a capire quanto la situazione in realtà sia sfuggita di mano e possa sfuggire di mano in maniera molto semplice in un contesto simile. Da quando il ponte è stato costruito, all'incirca tra il mese di maggio e il mese di luglio, sono state 148 le navi ucraine che sono state fermate dalle autorità russe per essere ispezionate proprio in previsione del passaggio attraverso il ponte sullo stretto di Kerch. Il mare di Azov e la contesa nel mare di Azov sono mesi in realtà che va allargandosi. I russi hanno iniziato anche lo scavo di alcuni giacimenti nel mare di Azov in un territorio conteso che chiaramente l'Ucraina ritiene tuttora far parte del proprio territorio, all'interno della propria sovranità nazionale, ed è quindi chiaro che questa situazione è di difficile risoluzione a meno che un tavolo negoziale non venga aperto in tempi anche rapidi, dove Ucraina, Russia, ma anche Unione Europea e Stati Uniti possano sedere e portare le parti a più miti consigli e a più miti accordi. E parlando invece della, appunto, della proposta di legge marziale di Poroshenko, lui ha già chiarito che la legge marziale non implica comunque un avvicinarsi di un conflitto, comunque di una guerra, per quanto riguarda le relazioni estere, mentre fondamentalmente le maggiori ripercussioni potrebbero essere all'interno, anche perché non l'ha chiesta applicata solo nelle regioni vicine alla zona di conflitto, ma su tutto lo Stato. E come dicevi all'inizio, ci stiamo avvicinando alle elezioni, quindi intanto ti chiederei cosa ha votato il Parlamento, visto che ne stavano discutendo adesso, e poi quali potrebbero essere le concrete conseguenze. Sì, in realtà un voto del Parlamento in questo momento non c'è ancora, perché la seduta che era prevista per le ore 4 di Kiev è stata rinviata. Diversi parlamentari di partiti di opposizione hanno criticato la scelta di imporre la legge marziale attraverso un decreto. Non sono stati, secondo le opposizioni, convocati i capi partito dell'opposizione per metterli al corrente di quello che era stato deciso durante il Consiglio di Sicurezza Nazionale. In questo momento sembra che dai 60 giorni previsti inizialmente per l'imposizione della legge di corte marziale, ovvero dal 26 di novembre oggi fino al 26 di gennaio prossimo, quindi già all'interno del periodo della campagna elettorale che inizierà con il nuovo anno, questa legge marziale dovrebbe essere stata accorciata a 30 giorni. 30 giorni in cui però il governo può vantarsi, le autorità possono utilizzare una più ampia disponibilità nell'entrare all'interno di comunicazioni, imporre ad esempio l'utilizzo di abitazioni private senza alcuna ragione, espropri, possono ad esempio mobilitare riservisti, cosa che in realtà è già stata fatta, perché Petro Poroshenko, durante una riunione davanti ai vertici militari, ha chiesto ai riservisti di tenersi pronti nel caso in cui il paese dovesse essere difeso da attacchi esterni. Un'ultima domanda veramente lampo, c'è veramente l'eventualità che si arrivi anche a un conflitto, appunto, in cui l'Ucraina ha necessità di difendersi da attacchi esterni? Sarebbe da pazzi finire in un conflitto dopo tutti questi anni di negoziati aperti. C'è da dire che la risolutezza di Petro Poroshenko nel convocare il Consiglio di Sicurezza e portare la Rada a votare così velocemente la legge marziale è un'escalation che nessuno vorrebbe fosse accaduta in un paese così fragile, economicamente fragile e politicamente così fragile come adesso l'Ucraina.